fatto Cesare? Poco! Ma per dire! Poco! Ma vai, c'è Gianni! E dai, è stato messo! E a costo, ma fa gappa! È così, E così è male! Adesso non la pippo! E fai gappa! E gli ha detto, ma non può clibbia! Ma fa gappa! E già va bene, già va! Via! Per carità. Ragazzi, ho poco gli apparelli con il microfono. Questi pezzi ancora i dipendi. Guarda, io sono una bambina. Veramente. Quanti? Momentaneamente, se non mi sento tranquillo, la barca rimane dove è. buono, lo puoi fare, se no ti acciappi chi sei lì, se non ha ancora bene la barca lo vedi, li acciappi. Se c'è mare mosso non fanno, se non c'ha dormeggi non fa. Esatto, e poi secondo come metti l'ancora, secondo dove si tira, non la recuperi più. Già lo so, vabbè, lui c'è tutto qua, tutto a motore, tutto motorizzato, non c'è nulla a mano, capisci? Anche l'ancora c'è il motore. Allora già va bene. Quello tira, va piano piano, ma fa come il vericello, no? Tira piano piano, ma già a forza. No, perché io una volta sono andato lì, vicino alla riga, diciamo così. Ho buttato l'ancora e la tua l'ha mandato un po' di mattana, ma a me è meglio. Ti posso credere, Mario, ti posso credere. Succede. Io un amico mio ci aveva fatto, per affare d'ancora ci aveva fatto un bidone con un policiamento e buttava giù quello, lo fili con monte. Ah, scappa grappa. Ma almeno quello è tondo, vedi? E bene o male, un po' mantiene, un po', mica tanto però, infatti non aggancia quello lì va bene col mare calmo, dai, perché non aggancia a nessun posto, perché diciamo che l'ancora da una parte va male quando aggancia troppo, ma dall'altra l'aggancia ci vuole per tenere ferma la barca. E infatti mi ha telefonato e sta dicendo, cosa facciamo? Partiamo lo stesso. E io gli ho detto, guarda, non me la sento, se io faremo, ci fermo la cena in barca, lo andiamo in barca, no, non devo voglia. Se non vado a pescare non devo voglia di muovermi, non andiamo a fare. Vabbè. E poi la cosa avanti con il piede sotto il tavolo, vado già. Prendi di roba, quindi usa, raga. Mi fermo a beffa, formaggio frasico e vino, e dopo si godi. E ma poi la cena ce la vuoi qua a terra, guarda che sono anche più rilassato lì, questo è sotto il tavolo. Ma la volta che l'ha fatto quando c'era la burrasca, guarda Mario, una burrasca così, non l'avevo mai vista in pieno mare. Eravamo a 1500 metri di profondità, ti dico, stavamo andando a Pizzogne. Niente, si è imbriagato, si è andato sotto, si è messo a mangiare, a bere vino di fondi, non so di dove, di olume, boh, di quello pastoso che si attacca al bicchiere. Un boccione gli ha fatto a metà, gli è messo brutto e si è bucato. E la sera gli ha giocato, l'ha tirato l'ancora, l'ha giocato in moto, si è combattuto, vai. Gaffa. Ciao Lello, se mi vedi? Gaffa, è passato un camionista con la scritta Lello, tutta illuminata, bellissima. Mario, la voglia c'è di andare, ma se il corpo non ce lo permette, se domani magari è bello, ragazzi, ci sentiamo magari, non lo so, perché a Porto Torre già si può andare, magari è troppo lontano, sprechi i soldi della benzina, si può fare, cosa vai a fare? Comunque la barca quando la mettiamo a bagno, Max? Appena il tempo inizia a migliorare, l'aggancio alla macchina e stiamo a darlo. Gaffa. E con quel mio amico facciamo bollettino a fondo, però c'ha i mulineri motorizzati, capito? E si mette i piombi da mezzo chilo in su, mezzo esibizione, vicinanti, vale, se le vedi per i namburi, ma belle lì, bambini vai. Gaffa. Bisogna che ci organizziamo. No, io ce l'ho una carretta piccola da traina, ma è roba piccola, capito? Non è roba grossa. No, per i pesci lì ci vuole proprio un mulinetto particolare, perché sono pesci da fondo, scendono a 1500 metri di profondità li trovi. Guarda, ecco il scannario, quando passi sopra che ci sono i branchi, comincia bili bili bili bili e vedi i branchi passando dal più piccolo al più grande, proprio la stanza del pesce ti misura. Ma già, purtroppo, lo sai come sono. io non ho niente, però qualche piccola soddisfazione me la tolgo anche io. Infatti, è quello che ti ho detto, non sono tutti che c'hanno la barca. Ecco, pagata, no, io l'ho presa un poco per me, perché a me mi piace andare a pescare e non mi piace rischiare più di tanto, capito? Perché al porto così il primo che si mette il barretto comanda e metti che un giorno mi sei stato con la moglie che era da te e ti rompe la scatola a te e lui se con la barca sei in regola pigli, esci dal porto una volta che sei un po' lontano pigli e ti metti a pescare, se va va, se non va pazienza. Mario, hai mai provato mai con la tua canara? No, con la tortanara dalla barca non ho mai provato. Prendi certi pulpi dalla barca, allucinanti. Vai alle rocette bianche, dimmi, tutto bene. Sì, adesso, quando c'è un giorno di mare bello, mettiamo in moto e andiamo. La fagatta. Questa ricomio non sai se si ha preso una parte benautica da poco. Si ha preso una parte benautica che c'era l'anno scorso. Ha trovato l'occasione dopo un mese che si aveva preso la parte in benautica e si è comprato questa barca. Però quello che ce l'aveva le ha dato tutto, ecco, scandaglio, le ha dato il GPRS per trovare i punti, addirittura aveva la GPRS dei punti segnati per andare a pescare, quindi lui non ha avuto nessuna difficoltà. Avanti! Buonasera Gianni e buonasera Mario, passate su Sudici che c'è un collegamento con la Spagna, c'è il papà che ci stanno rispondendo. Aio! Vamos! Così, ce lo butti nel cassonetto, sto a casa mia. sentito. Sì, lo so, ti conosco. Thank you. verità, che stavo cercando di fare a mangiare con Luca. Ciao Robè, ma non avete chiamato? Sa che mi ho risato, non ha dato il numero di telefono, ma ha inteso tutta la lista che adesso non sa il numero di Luca. Che cioè, va a buccia. Ciao Pino, ciao. Allora, giorno mi comprava le sigarette, mi dava soldi, però a me mi occupava il male, mi passava. E niente, poi gli ho detto, va, vattene a cagare, lasciami mettere in faccia, poi ti la moto stava con il freno, anzi non mi detto la moto perché me l'aveva regalata, siccome pure avevo rifatto, ho aspettato i pizzi. Arrivo e vengo indietro, e tua moto me l'hai regalata, la tua moto io te l'ho detto, la moto, ho detto vattene, non vuoi culo la cabizzina, sto anche picchiando. E l'ha chiamato il fratello, io sono la tua bradita, più umano, gli faccio un culo, tu mi ah vai, se andare, stava alterando, ho detto vai, se devi andare, vai, la buona anima è morto. Ha detto non ti permettere, se ti trovo con la moto, da aiuto il gatto e il greggio, non ho più vista. Era un terrorista prima io già. Sì. Dove si sentirà meglio di me? Che te la c'hai? Sotto ma turbo. La paga, fa proprio. addirittura, ma Fabio lì a me. Segnale a 9, la radio buona. Ai ai ai, già andare. Già va bene, già va. Lascia vedere un attimino. Prima curva te bene. Poi stanno due vatti. Modulati. Ola. Vabbè, razza. Ola. Ola. Lascia vedere così. Metto una differenza a Faber, lui si guarda. Questo è il primo. Ola. Ola. Questo è il primo. Questo è il secondo. Ola. Sale il segnale un po'. Adesso si sceglie a 7 e poi sale a 9. Aia, già andava, era. Questi così mi metto in balla da me. Poi mi dà 5 watt e mezzo, poi me ne dà 6. E io invece? Qui sei 9 e 20 qua. Guarda così. Come va? Sale. Ehi, poca roba, roba. 22, 23, dai. 25. Che tu Mario, sempre lo stesso. Ah, io sono una piccola bombetta di quelle che non scoppia. Ciao, va bene. Ciao, no, so che va bene. Io non ho sempre la stessa vera, in Briago Gecco, in un locale. E va. Sì. Ciao, buongiorno, io sono Salvatore, sono video. Che amici? Cosa? Che bello. Sì. Dai, ci va data l'antenna, si è comprato l'antenna, io non lo metto ai pali, si è comprato a ritirare i pali, poi sparito la circolazione. Boh, mi ha detto che ce l'hai in macchina, però boh, ho trovato sul tetto, non so quando ce la metti. Boh, così ha detto, poi non lo so. Lì, ho chiamato poco fa, e mi ha detto che ce l'ha solo in macchina. Te lo ricordi quando sei andato tu con le scene a San Video? Nicola 33, no, poi si cancellava, si riregistrava. pervasivo, lo scrivevo proprio il numero, non numeri, scrivendo sai che... E gli ho passato un suo messaggio. Che è? Ma che è? Sì, Torino. Massimo Turisi, Masso, c'è piano 5, sì, dai. Oh, c'è la radio, e si mi dentro una bottiglia di birra. Sì, sicuro sono. Luca, stavo dicendo, lì per dare i numeri di telefono, cosa facevano? Scrivevano le prime lettere dei tasti del telefonino, ad esempio il 2 ce l'ha e li mettiamo tutti in fila così. Sì, si potevamo anche mandare così, ma non se ne accorti, non è macculo. Tipo D333 DDT per dire. Ma se ne accorgono, poi se tu scrivi che come sarebbe su di, come può iniziare per dire, sai che per dire 333 lui. Ah, così io lo passo così. Ma prima no, mediante si prende mezza scheda ma passare un numero. È una mano. Ce n'è uno che si chiama Ibis, Ibis, è un bastardo, sta sempre. Sta 24 ore su 24 controllando le pagine. E quando vede i numeri, sempre così, scritti così, no? E si rompe le palle l'amore d'attore. Questo qua c'ha 55 anni, è grande che sta. Che suo, ma per dire, io entravo come Alghero, guarda che Alghero ha passato un numero. E lui è maledetto, è maledetto, questo li fa pissimo da attore. E a chi lo stava già a fa? Per carità, no io già. Ma oggi non ci ho provato una volta. L'ho passato. È rimasto due minuti fermo nel video perché c'era poca gente e si arrivano i telefonati anonime, squilli, infatti non rispondevo all'anonima, solo quando appariva il numero era rispondendo. No, io ho un paio di numeri, un paio di tip però. Ma io ne ho ancora, ne ho di Milano, di Udine, di tutte le parti, Roma, ma solo che già c'è mania di sicuro in Giava. Vabbè, infatti, io ce la faccio. Infatti, ci fa la vacanza. La vacanza contro di loro, no, forse che loro vogliono venire qua, contro mio, sì, domani. E fatti venire. Fatti venire. No, no, sono soldi. Fatti venire, sì. Fasulla. Quello che vediamo noi lo stesso Monice, siamo due, anche gli altri fanno qua. C'è il treno, sei più vecchio, ma di bello. Ma io usavo un Ducato. Io lavoravo a mezzo di notte, uscivo di spedale alle 10 e mezza, 11, queste volte è mezzogiorno, di spedale al giro e nelle consegne. Così la giornata era lì, come no? Ma prima li facevo i quotidiani e poi, no, bugia, iniziavo, ero con le 9 e mezza, mi preparavo i giornali, mi ricontavo, mi facevo le pedane, poi iniziavo a caricare e iniziavo a dire sì qualcosa. Poi mi giro di sasso e poi rientravo, mi caricavo il giro di sorso, sendoli, sorso, patavola. A 1 milione al mese. Una volta ho toccato una macchina perché stavo partendo, siccome c'era due tre appannati, appena ho messo in moto, non ho messo neanche la macchina, sono uscito appena dovevo sferzare per uscire dal cancello e c'era la macchina del pallone, del capannone dietro di me, adesso mi ha fatto parlare di busciaccala per andare a uscire, 300.000 lire mi ha contattato la macchina, proprio una macchina appena lì, ecco l'usire. Preparami l'assegno, quanto mi rivira un milione, mi rivira un milione, 300.000 lire e ti concedo, invece grazie, ma non puoi, ma ti fai me lo fare la macchina di tasca, ma stai scherzando, ma io come mi aumenta, ma non me ne affutti, dammi il resto, me ne sto andando. Io sto parlando di tasca, un mesetto fa sono uscito all'Argentiera, stava più freddo, sono andato a fare la curva e sono uscito dritto, non sto parlando di tasca. Te l'hai pagata tu? Non sto pagando, è stato un po' di mese. Poi l'hanno fatto? Gli ho spaccato il parafango del fianco, poi ha mancato sopra la ruota, ho rotto il parafango, una sta in carriera che c'è, e poi l'altro giorno mi era caduto un carrello sopra il cofano, quindi ho fatto tutto un po'. Certo, no, ma io non conviene così, no. Se non puoi andare a fare poi spatti la macchina te la farò pagare, ma la tavola gratis, no. Ma infatti, cioè, aveva quelle gomme da fare, ti chiedono, fisce, proprio non c'era neanche più di sé. No, come sei uscito? Stavo anche quello un bel, all'Argentiera, nelle strade in discesa, a curve. Non ho neanche toccato il freno, No, sta a scalare, va a girare la macchina dritta, sei uscito. Se non c'era guardrail, ci uscivo del burrone. Scappata, però io il mio l'avevo proprio messo male, senza, cioè va due lampadine piccole, senza luci praticamente, perché non si vedeva nulla. Poi c'aveva il finestrino rotto, poi vabbè, era tutto disastrato, tutto messo male, guarda, neanche di zinga c'era un furgone del genere, non se lo tengono neanche perché ce lo buttano. Poi senza freni ci buttano su questa, no, chissà, e ci hanno a sinistra, c'erano le curve di sorso. Rientro, Marco, passo così, questo furgone non ha freni, cosa mi devo ammazzare? Ho aperto il cofano, avanti, controllo che c'era olio di freni, proprio zero, quindi era. Brutta cosa. Te l'ho detto, da noi ce l'hanno due o tre messi bene, perché sennò... Quel tipo c'era il posto al monte che l'aveva incentrata, chi è? Chi? Quel tipo al monte c'era soprattutto, vicino alle scuole. Ma... dipende che vattero o se non si dia. No, per SDA era, c'era una tele malacchia oppure attaccata, la 2001 Turbo. Allora il faccio, non so, ma la volta. E l'anno scorso, è proprio uscito con i baffi. L'anno scorso non c'era ancora. Ma non c'eri tu? No, io ci sono da... dove? No, ce l'ha mandato, la tutta gli aveva spaccata. Ma c'è passata a palla qua vicino a casa, ma a palla, lì dove era la precedenza, praticamente il furgone era già fuori e lui gli è piombato addosso, invece lui si doveva allargare, venire un po', rallentare, non a entrare a palla in chini, e ha distrutto il furgone e poi ha distrutto la macchina. Ma che macchina è questa? È una tipo Fiorino, dai. Ma il combo? È il combo, sì, bravo. pista. Quello che sa voi, quello che sa voi, adesso c'è a sapere. Ma quello che c'è stato ancora, o no? No, no, no, lui è suo, però non sono da sottotitoli. Però che ha preso la partita, questo qua, questo è stato un incidente, è rimasto tutto, è stato all'altro tempo. C'è l'Armè che è trepata, ha trepato il trappone davanti, la storia, è un casino. E niente, però ha aggiustato l'Armè. Adesso c'è la sapere. No, quella lì praticamente era a destra incidentata, tutto ha spaccato, non so, paraurti, parafango, è entrata vento. E è rimasta la camera, erano in due, erano loro, in macchina. I ragazzini, la patente ce l'avevano, diciamo, 2-3 mesi, E magari ancora lì, un tipo di capelli, una ragazza, aveva avuto 25 anni, 24 anni. Capelli già corti corti, stravaganti. Ah, non stanno uscendo lì. Oh. Non sto uscendo? Adesso sì, ogni tanto non lo esci. C'ho i fili qua, te lascio il microfono così a mano. Sta a dire? Non c'è stato da solo. Poi metti un po' di date giovante. Mi devo andare con niente, c'è un pezzo, di nuovo mezz'ora, cercando di mettere la posta. Io che stavo a fare, c'era qualche posticino per me. Questa la faccia prima, a fare i giornali. Non c'è problema. Cava, cava. Sono sempre cambiando. Esatto, bisogna andare a culo. Non lo fa, bisogna avere la paga. Solo quanto la paga si può andare tranquillamente. Secondo quanto la paga, non è che andi in chiama la miseria. Vabbè, la paga non è alta, però meglio di nulla. La paga non è alta, però non puoi andare per una miseria, scusa. Le ore sono tante, per quanto si sentita il video che fa tante ore. Vabbè, le ore dipendono da te, prima riesci a rientrare, meglio per te, cioè. Tu c'è solo un limite, rientrare più alle 7:30, poi puoi anche rientrare alle 4. Poi non c'è problema. Lo so, non c'è problema, ma... non ti devi ammazzare, no, per andare a consegnare. Scusa, poi se le macchine sono come lo stai dicendo, non puoi pretendere, non puoi cambiare se mai non le gomme lisce, oppure insomma se mai di motore. Tutto bisogna avere, se tu clippi il motore ci te lo fanno pagare. No, aspetta, se dipende, se è roba che hai cambiato tu, ovviamente te la fa pagare. È roba che se ne vuoi. Non sei uscito. E adesso? Sei in basso in radio, molto basso. Adesso neanche. Così? c'era cambiato canale. Ritardo un po'. Ah, tu praticamente imposti la verso, prendi per Sentino, via Padre Bustini, via Milano, Badi, e ti porta là. Ti porta là. Gappa, gappa. Cioè, vai almeno a principale. Cioè, ce l'ha ancora, sicuramente. Un civiale, ha pagato lui, mi sembra, 600 euro, ma bello, eh. Ma è utile, questo lavoro è utile. Un conto, se uno si occupa di lavoro, sì, ma tu vai, diciamo, navigatore. Un conto che fa un lavoro che ti serve, è allucinante, ti fa rispondere un cazzo di tempo. Guarda, se non, per esempio, non sei, Sassel non è piccola, guarda, non se ne va via, io la imposto e ti porta. No, vabbè, ma Sassel arriva normale, sai, cioè, su Sassel non lo userò mai. Ma quando inizi ad andare, ad esempio, spero, qua, quando scendi a Patria, ad esempio, non c'è una via in croce segnata dei costi. Invece la piazzi lì, vai, la via, e ti porta. Gappa, che lo so, già è utile, già è utile. Ma guarda che si è comprato lo stereo con l'navigatore satellitare. Cosa? Lo stereo con l'navigatore satellitare. Non ti ho capito. Ma... lo stereo con l'navigatore satellitare. Ah, quello che sono dalla casa già con il... Io ho capito il sì. Devi costava 1000 euro in più. E l'altro l'hai messo. Mamma, come sogno. Adesso, per questo qua, per il ricevitore, ne ho speso 87 e l'ho collegato al cellulare. E sono lo stesso. Vabbè, ma quello là, diciamo, quello che sto dicendo io ti fa anche la televisore. Ti fa la televisore. Da navigatore satellitare la cambia, che magari se ti compri quello portatile ti fanno pagare loro la grandezza dello schermo, perché uguale, c'era uguale a media volta quello che si è preso Salverio, appena appena più grande dello schermo costava 100 euro in più, uguale, le stesse caratteristiche. Ecco, gappa e già lo so, ma è molto utile per uno che viaggia così, che va nei paesi che non conosce e via dicendo. Con la navigatore satellitare ci si porta se no alla porta di casa. Infatti, Salverio, se l'ha preso alla direzione di Salverio, mi potete mandare anche a Cagliari a consegnare. Vabbè, Salverio è un caso patologico, a chi mi smacco come te, l'ha detto, ma quando l'ha detto pure, si deve fare un buon esempio dall'anche. Poi ce l'ha pigliato e non lo sa andata, perché quando siamo usciti insieme andavamo a farlo io tutto il portamento, lui non lo sappia nulla. Un giorno mi ha fatto uscire con lui, è uscito da solo, l'hanno richiamato l'SSM per ritrovare il magazzino perché era ancora in giro. E lui ha detto, non sono riuscito a farla funzionare, quindi ci ho messo un bel distesso. Ecco, appagata, bubu. Ti accenta, alle 8? No, dopo un 4 per mezzo. Entri, ma non è che andava. Se la dipende da te, io quando ero a Porto Torre ci giro fisso all'inizio, ritrovo alle 7, poi ci ho preso la mano anche alle 4 e mezzo. Dipende dal giro che hai. Ecco, ma di solito quanto sono le consegne? 10, 20, quanto sono? 10, 20. Altro che 10, 20. Direi che dovresti prendere 60, però vabbè, se ci sono 50, 55 è lo stesso. E vabbè, una roba piccola però. È sempre con segni, Gio. Vabbè, ho trovato spazi però la schiena, eh. Vabbè, quello lì capita di tanto, diciamo, che faccio pesante. Tipo ieri avevo tre pacchi pieni di bottiglie di cuore dentro, e me l'hanno dovuto prendere con la... No, carriola. Ehi, altro non dicono che si chiamano. La carrucola. Quale che prendono le pedale, là? Ah, quel muletto. Cosa, Mario? Quel muletto. Oh, non so come si chiama. Oh, ce l'hai forche. Bravo, pure. È un muletto. Quanti mesi ha, più o meno? 5, 6, quanto ne ha? Di che cosa? Ma che quanto ne ha, guarda. Ascolta, che c'è anche... Non c'è solo le CDA, c'è anche le Equity, quindi... un Ducato, un Boxer 7, poi ho visto uno degli Executive, 8 ne ha, più o meno 8 o 9. Caffaia, ma la fate giornale la notte? Sì, però tu conta che... come si dice? La metà, sono sempre la metà di coprire se non funziona. Caffaia, vabbè. Ma io l'ho fatto anche alla Sardegna. Un tipo che praticamente sostituì con un altro e lavorava dentro lui, cioè faceva le consegne, e tramite questo tipo che lavora lì lo stesso mi ha chiamato, lui ci doveva lavorare un paio di giorni, mi ha chiamato una settimana e facevo la Sardegna, Sassari e basta. Brutto giro, c'era uno che lavorava da noi, che si faceva il giro di mattina e il giro di notte, non ti dico altro. Ma se mi paga, se me ne affutti, brutto non brutto, ma sono andato. Allora, sono entrato in da Marco, mi ha parlato del prete, siccome ho visto del lavoro, non ce n'era, ma qua non c'è problema, un tipo è durato un giorno, poi vado a entrare mio fratello, due giorni è scappato, poi è entrato un altro, ma te sono lì fuggito, e ci sono rimasto quattro mesi lì. Tu conta, sigarette, non mi batti la colazione, non ci voglio rimettere in tasca, niente. è brutto così. Ah no, ci sono andato, con mi azzicchio dello figliolo, lui, se tu mi hai in piedi dello figlio, ma addormentato in piedi, lì, allucinato questo ragazzo, in piedi proprio dormito. Ah, ti scendi, ho rotto le balle. A bozzi, hai tre minuti. Luca. Ma chi è Paolo? Bravo Paolo, Esiste da Marco. Caffa, lo conosci? Se conosco Marco, quello ho parlato con Marattino prima, Marco c'è 31. Caffa, a Paolo il figlio, ci si mi ha picchiato. Guarda, non lo picchiava, ma non mi lasciava, ma ha rotto la bala, tu scendi. Guarda, sì, no, con i giornali in mano, insomma lui contava, lo poteva contare. Dormiti in piedi, con i giornali in mano, proprio addormentato. Io so, conosco il padre, ai figli, alle figlie, conosco un po' tutti. Ma lui, una volta, me l'ha raccontato Marco stesso a me, una volta aveva l'officina, no? A Codagnetta, e era un figlio che era tutto sotto la macchina, faccio il drumiglio, è andato lui, stava piano, di nascosto, si è seduto in macchina e ha suonato le trombe della macchina, come se ne è pisato, allucinante. Infatti una volta ha fatto venire con me, anzi no, se uno voleva il padre che usava, che toccasse il furgone, no, non c'era pazienza, no, mi guidava, ha detto cappallo, prendo lo tuo, io portavo là, cazzo, non c'è lui, dai. Siamo qua, se vuoi entrare, ci sono le prossime, cava, buona carica, avanti Mario, andiamo qua. Ecco, appagata, la conosco bene anch'io già. Bravo, metto la cazzo, facciamo di casino, per carità. Bravo, bisogna vedere come si dice, per bravo. No, ma come era tranquillo, Mario, sono 4 mesi miei. Sì, anche se chiudo il cudia, perché una volta ho fatto caricare il furgone e lì i pacchi sono contatti, non me ne è né in più né in manco. L'ho caricato un pacco in più, ero già pronto a partire. Mi ha fatto caricare tutta la macchina, quasi tutta. E c'era nel volo questo pacco in più. Ecco, va bene. L'utile mi sta chiamando per caricare, ci sentiamo dopo. Ciao, a dopo, ciao. Eccomi. Eccomi. Ci sei Luca? Luca, ci sei? Fabio. Dimmi. Mi sono andato a mangiare anche lui, anche io sto caricando. Ah, ok. Voglio che la rimette e poi si prendo, va. Ok, ok, allora, io sono qua. Cioè? Cioè? Che gli ha affacciato? Affacciato gli compleanno, Mario. No, aspetta, Mario nel senso, Mario, dico tu dove veniva la strada, bro. Ma, guaraccio. Vabbè, era un divertimento, ma delle volte era un rompimento di balle. No, io ho visto, l'anno scorso forse. Non c'è ancora il mercatore. Ehi, vabbè. Io una volta a me, c'è una volta una cosa a parolacce, di tutti i cuori mi hanno detto. Ma tu ti preoccupare, c'è una casa, io non lo conoscevo neanche. Come ho visto, ti ho visto, sto qua, sì. Ehi, ma io sono che fermo, ma non ti permettere più me, non ti permettere più, ma scherzo io, Luca, lo sa. Non ti permettere più. Che io, come se mai un'altra persona, poi non ho visto che fa. Va bene, vado a casa, al sacco. Dopo, vabbè, più tardi, verso le 10 mi sembra, le 10 e mezza. Comincia a pigliare la parolacci, donna, io, tutto il culo mi ha detto. No, noi una volta ci siamo andati, io, con il zio, Anna, Daniela, Salvino, era la ragazza di Salvino, avevo fatto a pezzi, guarda che era la sua. L'ha fatto uscire, avevo fatto a pezzi. Stacco il telefono. Caffa. Luca, non sarà Elena, no? Ma lì sono via un numero. E beh, Mario, riprendi. Beh, com'è andata con la spagnola? Ma Luca, bisogna rindo. Ecco, io cambio, ora non mi dà ben giro, boh. Roberto, ma è l'antenna? Ecco, dimmi, scusa. Hai l'antenna o sei proprio solo col portatile? No, adesso sono collegato alla Mantova. Ma non sta pagando. E ti arrivo bene o male? No, il segnale è forte, quando sta. La radio è appena con basso, normale. Vabbè, la radio è quella che c'è nel portatile, non posso pretendere. Nell'altro apparato magari potevi sentirmi un po' molto meglio. Infatti, però già senti bene. Sei vicino a me, fermo un attimo, sì, tu. Ma allora verso il grattacieli, verso Claudio, sì, o più, diciamo, più verso la... dall'altra parte, verso Multineddo, diciamo. Verso Multineddo, dunque due passi dopo Claudio. Gaffa, tu con cosa stai uscendo? Con President Lincoln, la Mantova Turbo. Gaffa, qua arrivi a bomba. Almeno, non ho l'indicatore qua, ma con lo stesso tutto chiuso arrivi a bomba. Gaffa. Sentito, ma sei nuovo o sono io troppo nuovo? No, io modulavo prima, un bel po' di anni fa. Oggi così, ho visto la macchina dentro l'armadio, e se ci lo riaccendo delle vite. Mi sono fatto dire, no, adesso si sta ripopolando, almeno io ci sono da dicembre, dai, io sono nuova generazione. Ci sono da dicembre, piano piano si sta riempendo, anche se ultimamente in questi giorni ho visto se qualcosa che non sta girando bene, qualcuno ha abbandonato. Io ho provato anche... anche più o meno, molto a settembre, non avevo sentito nessuno. Padre! Dimmi Mario. Noi siamo vecchi gadrodi al baracchino, è vero. Solo che ne tanto, figli, se vuole tutto. No, adesso tu mi devi dire la verità, Perché intanto, qualunque cosa mi dirai, se la verità ci credo, se non è la verità non ci credo, Dì la verità che ti stavano pescando meglio orecchie stasera. No, perché la state dicendo? Ah, perché abbiamo cercato a te, abbiamo cercato un sacco di persone che entravano prima, e niente. E poi invece di sorpresa sei entrato tu, ma non avevamo finito neanche un quarto d'ora di parlare di te. No, cioè, che Salvini mi sta lasciando la testa ad entrare, faccio pari un troppo piace, non che ce l'hai di nuovo, sto entrando di nuovo gente. Era dall'altra sera che volevo rientrare, poi invece, vabbè, ho avuto da fare. Oggi è così, mi veniva l'aria, ce l'hai, rientriamo a vedere. No, perché io ho detto, cazzo, no, me ne andiamo, mi è venuta fuori la coda. Avevo fatto io un paio di anni fa. È durato qualche mese che c'era molta gente, perché poi lo stesso si è spenta la cosa. Non è che si è spenta la cosa, è che tutti in bene o male abbiamo quei momenti che siamo un po' più esasperati, e poi abbiamo quei momenti che siamo più tranquilli, allora ci rilassiamo un po' al baracchino, capito? Ma ci sono quei momenti che sai com'è, no? Non so, ma all'inizio era troppo bene. Alla fine non stavamo sempre soliti, poi dei mesi dopo, vabbè. Diciamo che noi, dopo di un poco, ci siamo persi di vista perché un po' che avevamo avuto discussioni in famiglia e cosa, in campagna, non stavamo più scendendo e ci siamo un po' allontanati. E quell'altro che si doveva sposare, quell'altro che l'hanno messo in mezzo alle chiacchiere e ha chiuso, è così che un po' la frequenza si è ristretta. E Tonino che ha fatto? Ah, Tonino, io l'ho visto l'anno scorso che ci siamo trovati giù a pescare a Porto Torres, e poi dal giorno non l'ho più visto, solo dove sta lavorando, dove abita, però non l'ho più visto io. Vabbè, riprendi Roberto. Caffa, Gianni non si è sentito, Mario? E Gianni già si è sentito, è rientrato a casa, ha pigliato la sua signora, se ne sono andati prima a cena e poi se ne vanno andare a ballare. Lo fanno bene, che non ho capito, se hanno la possibilità. Hanno la possibilità, non è che ci voglia chissà che cosa, ma loro vanno tra amici, si organizzano una cena a fine settimana, poi si mettono a ballare, a fare, poi si rientra a casa. Fatta fa, riprendi tu Fabio. Spesso lo telefono, abbiamo fatto. Succede? Aspetta, non ho capito, l'ho distratto, scusa Mario. Ecco, che succede? Che i giovani se ne vanno a ballare. No, cosa ha detto Fabio? Non ho capito perché stavo la televisione, mi sono distratto un attimino. Che gli ha scusato il telefono, ha detto scusa un attimo, ha scusato il telefono. Caffa. E Fabio ci conosciamo lo stesso da un bel po'. Era piccolino lui quando andavamo così. Lui vicino a me mi sta dicendo, a me lo dava iscritto, dovrebbe essere molto vicino lui. Mario, ci conosciamo pure. Noi che non abiti da pochi anni lì. Se abita da tanti anni già ci conosciamo sicuramente, almeno di vista. Eccomi. Abita sì tanti anni. Se sono dicendo, l'ho conosciuto io, c'aveva subito, c'aveva già il baracchino, era già, diciamo così, fidanzato e niente. Ci trovavamo a casa dei pomponi, ci trovavamo su al quadrato e ci trovavamo un po' dappertutto. Da molti anni di lì a Carmonasse? 16 anni. Vabbè, forse allora, se sono quei palazzi nuovi magari non lo so se ci conosciamo, perché se abitavi magari molto prima, nei primi palazzi sicuramente ci conoscevamo, o magari ci conosciamo pure. Ma no, tu quanti anni hai? 42. E il tuo? Comunque Carmonasse è l'ultimo palazzo che hanno fatto, 16 anni fa. No, dove abito io, ci c'eravamo solo noi quando siamo nati, almeno io sono nato qui e la prima casa che è stata costruita, la mia, a parte un'altra, sono nella zona dove c'è, cosa ti posso dire, sotto, prima di arrivare al coso, allo stadio, là, una strada che c'è lì. Ah, capito. Sicuramente ci passerai tutti i giorni, sabato, a Carmonasse ci passerai centinaia di volte. È una strada, diciamo, che ci sarà sempre, una delle prime. Sì, ho capito. Amato sta vicino, ciao. No, non ho capito. Siamo molto, molto vicini. Caffa. Il microfono cosa stai utilizzando, tu? C'è la Bravo Plus. Caffa, è una bella modulazione. Però non c'ho missili attaccati così con le mani, non penso che possa andare. Caffa. Riprende Maria. Già va bene, se te l'ho detto che siete, se vi affacciate alla finestra, non usate il braccio, non potete dare la mano quasi. Ma secondo me la casa sua comunque si vede anche il passo. Probabilmente se mi stai dicendo di lì con la giornalista, probabilmente, diciamo, non dalla finestra mia, però se mi metto un terrazzo da sopra l'antenna mia, forse riesco a vedersi. No, vedi sicuro. Passa. Speriamo non faccia come Claudio, che se sono attacca a Claudio e non gli scompare tutto, a Giumai, a meno che non sia nello stesso canale nostro. Infatti, poco fa, era sul altro canale, Claudio, Io stavo facendo delle prove con delle cose particolari e ammazzava tutti, non ce ne era per nessuno. E pensa che tra poco lì arriverà pure di nuovo il pomponio. 3-4 ore. Via. Anche lì già andata qua, là. Come segnale, come siamo Mario, io e Fabio rispetto a te? Sono con 2,5 watt, sarò col piccolino, 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. Al cavolo verrà 10,5. Guarda un po', 2,3 euro, 9,10, Fabietto. Tra l'altro quanto ti arrivavo col pace, Mario? Col pace mi arriva 9,20. Gaffa, quindi forse riesce ad entrare meglio. Qui c'è la turbo, però la turbo dovrebbe rendere di più, forse è più disagiato come apertura dalla zona tua. No, ma più o meno siete uguali là. Lui adesso sta usando la delta, sta mantenendo i fili con le mani, a volte c'è alto, a volte c'è basso, e non gli puoi dare un controllo preciso. Per adesso glielo sta mantenendo con le mani. Che si sente un pochettino recentemente è Santiago 9. Caffa. Sta ponendo pure, no, Mario? Stavo parlando con la spagnola, è entrato Antonello, su 10. Sì. Lo sei sentito, non l'avete sentito? L'ho detto che stavo ascoltando mio figlio. Claudio, se l'abbiamo sentito stasera, l'ha sentito qualcuno? Sì, l'ho sentito, ha fatto un paio di passaggi. Fa riprendi Fabio tu. Vai Leo. Stacca le file qua. Sto uscendo? Penso sei uscito, però poco fa prima nell'altro passaggio presente stavi innescando. No. Accendo male e metto il figlio a chiamare. Ecco la tua, facciamo tre. passi l'altro, c'avevi solo il cavo d'antenna. No, io so anche il cavo, c'è il barattino, l'Intec, 606, e poi l'alimentatore, vabbè. Lui c'è già tutto, no? Io pensavo che dovessi trasferire l'apparato in camera, c'avevi solo il cavo d'antenna. Ma tu una volta uscivate anche con un antennino piccolino, non sbaglio? Quale? Oh, vabbè, mi sembra qualche volta che uscivamo, se c'è no, c'è un antennino piccolo, non avevate voi, no? Ma sì, ero io con la magnetica. Però non rendeva niente, era molto bassa. Vabbè, la magnetica, devo superare tutti i palazzi. Gaffa, gaffa. Il tuo padre è ancora telefonando? Sta parlando con madrina. Gaffa, gaffa. Di poca gente in frequenza, pensavo che ce ne fosse qualcuno di più. Ora vai, che è successo questa cosa, ora aspettiamo che si cambino un po' le acque di nuovo. E vabbè, chi è in regola non ha niente da temere, cacchio, non penso che vengano a romperti le scatole a te o a me o a Gianni. Sai com'è, io non si schiare mai, perché mamma ha già avuto quello che ha avuto, quindi per il sicuro. Posso utilizzare gli apparati omologati e fare entro i termini di legge, per cui che cosa deve temere, non deve temere niente. Dopo ci sono questi imbecilli che si mettono a traslare, vabbè, noi ogni tanto ricordiamo dove siamo, lo ricordo anche adesso, canale 10, 27075, in compagnia di Davide, Mario e Fabio, oltre che Roberto. Ora vediamo. Dice che la regia vendita la zona vostra, stava dicendo cosa, si me l'ha detto stamattina, l'ho sentito in frequenza. La cassa, dice c'era gente nella zona vostra. No, non lo so. Io già sono tranquillo da parte mia, poi non lo so gli altri. E anche noi siamo tranquilli, ma sai, lui è già nella lista nera, comunque, in ogni caso. Vabbè, ma quello è già passato e dimenticato. Tutto a posto, adesso si parla di altre cose. Ci stai andando Davide? Sì, ogni tanto, il sabato. Lo faccio il sabato notte e la domenica mattina. Ma in questi giorni che c'è la Formula 1 neanche per idea. Domani c'è il Gran Premio, ma alle 7. Le 7 del mattino? Oh, io le prove erano alle 7 stamattina e ne ho visto un pezzettino. Mi immagino che il Gran Premio sia alle 7 lo stesso. Il Gran Premio può essere anche stanotte allora. No. O alle 7 o alle 8, ma non di più. Allora domani mattina mi sveglio presto quando c'è qualcosa. Purtroppo però c'è marca il 14esimo se farà. E non è successo. Ha rotto il motore, l'hanno retrocesso di 10 posizioni, c'è al quarto tempo. E cosa? Massa è ultimo, 21esimo mi pare. Il cavolo! È una cagata questo fatto delle qualifiche fatte così, non è più come prima, era più divertente prima. Aveva bisogno di 3 giri di qualifiche, ti si spacca il motore, non devi cambiare il motore fino al Gran Premio successivo, eccetera, eccetera. Nominativo non te l'hai preso tu, Davide? Ma lui nominativo non se ne ha preso, si chiama Davide Blu. Davide Mansell Junior. Di Formula 1, Mario, ha detto mi piace la Formula 1, mi piace Mansell come pilota e mi ho scelto quella, quindi non sei tu che l'hai scelto. Negativo. Chi te l'ha scelto? È una persona che adesso non c'è più in frequenza. E tu l'hai accettato. E quell'altro Mario Mau, sì. Ma no, quello è il presidente della Cina. Ah, Mao, ma non pensavo Miao, io c'è Mao. Di macchine, e il presidente della Cina da appunto. Poi c'è Principe, poi c'è Antonello che lo chiamiamo Pompunio, questo Pompunio non si sa da dove sia uscito, comunque io vabbè lo chiamo Pomporco, poi c'è Pipistrello, poi c'è Aquila della Notte, poi c'è Marco Triste. e poi c'era, perché adesso purtroppo faccio l'arma solo di più, c'era braccio di ferro. Sì, sì, poi il manicomio è più simpatico di tutti secondo me. Luca, manicomio è un attimo più simpatico. Ma guarda che manicomio, diciamo che quello lì è copiato, perché l'originale è Claudio, già lo sa, lo sanno tutti, lo sa anche Luca, manicomio era Andrea, ovvero, che adesso non sta più modulando, però ogni tanto si fa vedere. Ma è stata bella perché gliela scelto il nominativo per dire a Marco, magari ascolti a Claudio. Io sono l'ho scelto da solo perché Claudio è un grande partito per la radio e se l'è scelto lui, poi prima lo chiamavamo tutti quanti Claudio Spalliero, poi da quando è andato lì con l'abitazione è passato come torre di controllo, Tawar. Gaffa, gaffa. Riprendi Fabio se ci sei. Lo figlio ancora stavo facendo la bassa. No, passava messo già chiuso. Quindi Gianni, a Matano sta andando con la famiglia, lo fa benissimo, mica che ci vuole. Dopo una settimana di lavoro almeno ti svaghi un pochettino, non è che io ci sono troppo stanco. Dalle due manca a casa, sotto durante alle 7:30, tra partite e cose varie. Vabbè, ma non è che stavi giocando tu, no? No, non stavo giocando, ma da lui, dopo che ho finito io, alle 6 sono andato a arbitrare una partita e come che abbia giocato io, ho corso anche io. Ah, certo, anche l'arbitro sta facendo roba. No, sono le partite, noi organizziamo un torneo di ragazzini e campi nostri della squadra e ne ho arbitrato una di partita. Già, già è bello, sono 3 tempi da 15, però ti devi muovere anche tu, dai. Cappa, cappa, e vabbè, tu già sei longilineo, se puoi correre. Vabbè, abbastanza longilineo, ora diciamo non so più grasso, però quando non c'è più l'allenamento, non è più, prima mi allenavo, adesso sono da un sacco di tempo che non sto più allenandomi. Sto allenando, non allenando mio. Gappa, gappa. Ma tu come allenatore dovresti dare l'esempio e ti dovresti allenare anche tu. No, gappa, la preparazione me la sono tutta fatta, quando c'è una bella stagione, però quando va freddo mi metto in mezzo, sì, però non corro, cioè i due tempi, eccetera, eccetera, li faccio degli esercizi, però a correre no, è troppo freddo perché poi se sudi non mi faccio la doccia, lì devo rientrare subito a casa e viene male. E cappa cappa, pazienza ci vuole, e niente, comunque per il resto tutto tranquillo, sì. Cappa cappa, meno male, abbiamo finito, almeno quest'anno, diciamo quest'anno la categoria mia è finita, così non me ne scendo tutti da mezzo, e c'ho più tempo per me e la famiglia. Beh, io devo lasciare. Sì, vabbè, non è che ci sia preso da morire, ma comunque non è che non sono giornate da uscire in barca, no? No, non dico uscire in barca, però per dire i bambini a fare una passeggiata di fuori da Tamona per il singelato, però è freddo, cioè quello lì c'è un vento, per dire le case erano a Fertiglia. Fino alle 3 e mezzo, fino alle 4 non si stava bene, è stata una bella giornata. Ad Abui, dopo le 6 era un freddo, questo vento gelido, ok? Che ci vuoi fare? Purtroppo il vento quando c'è e non lo puoi mica fermare. Sì, io non sono passato da Semu da novembre, mi convito tempo, non abbiamo avuto una giornata bella ancora di quelle primaverili. Vabbè, non è iniziata la primavera, però cavolo, siamo sempre dalla pioggia a rugoso, al vento, eccetera, eccetera. Beh, che non ti puoi lamentare, da lunedì c'era un bel tempo e c'erano bellissime giornate. È abbastanza bella, ma non c'è ancora quel caldo, cioè, ma non so se a marzo c'era caldo, te lo ricordi? Io non lo ricordo bene, cazzo, invece pure anche a gennaio qualche bella giornata l'ha fatta, ma cavolo, quest'anno è tutta una diraggia al freddo. Perché purtroppo il clima non è più lo stesso, più sta andando e più sta peggiorando. No, adesso le stagioni intermedie non esistono più, adesso c'è l'estate e poi l'ugasso, cioè l'inverno voglio dire, non esiste più la primavera che inizia piano piano, invece tutto di golfo, come ha fatto a novembre, fino a ottobre verrà un caso da morire, ad ottobre a novembre è arrivato lo freddo di colpo. Cioè è arrivato il freddo di colpo, il colpo di colpo non è arrivato, perché non è che sia arrivato, perché ci sono state le piccole piogge, le cose, e piano piano è entrato. Tu adesso vuoi sulla primavera, tu ancora ci vogliono 10 giorni per arrivare alla primavera. Vabbè Mario, però tieni presente, siamo già a marzo di un tratto, l'anno scorso in questo periodo c'era già abbastanza caldo, ci saranno stati almeno 5 gradi di fiumi, siamo intorno ai 12 gradi mi adesso. La temperatura più calda è 12-13 gradi, l'anno scorso anche 18 gradi c'era. Ma io non so se tu te lo ricordi, mi sembra che 4 anni fa ci ha nevicato anche a marzo. Sì, sì, caffa, me lo ricordo, però 2 giorni di freddo, 3-4 giorni, non di più. Qua stiamo parlando di freddo da novembre, noi fino a ottobre, io l'ultimo bagno l'avevo fatto a ottobre quest'anno. Ad Amburi, la settimana dopo, si è abbassata di 10 gradi la temperatura, era un freddo da ragazzi sotto di corpo, cioè ti trovavi la manica corta a metterci di un botto pesante che c'era freddo. E purtroppo è così, il tempo quando gira, gira, non è che... Lo possiamo controllare noi, no, il tempo. Purtroppo quando è tempo suo, adesso noi siamo in marzo e vorremmo già che fosse primavera, adesso è il tempo di arrivare la primavera, comunque un poco di buone giornate questa settimana le ha fatte, adesso perché c'è stato questo, no, non è scirocco, questo qui è l'immicchio, è vero, c'è stato questo l'immicchio, però... Cioè, i venti girano, è un po' uno, un po' altro. E così che si va avanti. Adesso, tra 10 giorni, entra la primavera e vedremo cosa succede. E ci arriva, ne siamo stanchi di tutto il tempo, ogni fine settimana, perché domani è prevista pioggia pure, non è che fa una bella giornata, c'è possibile la probabilità di pioggia. No, quello non l'ho visto, visto. Quello non l'ho visto, però vabbè, non succede nulla, rimaniamo in casa e buonanotte al sicchio. No, e io lo stesso mi devo iniziare a dare da fare perché mi devo sistemare quel carrello, mi devo sistemare un po' quella barchetta giusto per poter andare. E niente, e poi si vedrà, davvero. Se sono rose, diceva quello, fioriranno, caro Roberto. Se non si getta in brima. Anche quello è vero. Una cosa, ma il motore tu il rimessaggio l'hai fatto, l'hai fatto girare una paloccia. No, io tutte le volte che lo tolgo con le cuffie, attacco la pompa e lo sciacquo. Ma tutte le volte che lo togli dall'acqua o a fine stagione? Tutte le volte che lo tolgo dall'acqua. Mi fa consumare la miscela pure, no? No, negativo. Quello è sbagliato, perché si forma siccome un bel tempo. si formano i grumi di coso dell'olio, evapora la benzina e rimane l'olio dentro i gigli, si intaglia il gigli e ti crea problemi di carburazione. E poi un'altra cosa, tu i cilindri non li hai buttato niente dentro. Nella fine stagione, nel rifugio delle candele, li butti una quantità dell'olio, li butti un po' di olio dentro e fai girare in vuoto i pistoni in modo che si lubrifichi dentro la camera, perché se no le fasce si possono anche inchiodare e ti graffiano, cioè perché si può formare dell'ossido interno. No, le cose lì non le ho fatte, però niente, io l'ho messo in moto, gli ho fatto girare un bel po' di acqua dolce, non è che l'ho lasciato 10 minuti, l'ho lasciato almeno un 3/4 d'ora girando. E niente, no, l'olio in ogni caso, anche se ti rimane dell'olio da una parte è meglio, perché l'olio lo mantiene lubrificato, non gli fa mettere l'acqua, non gli fa mettere nulla, capito? No, ma per quello non c'è problema. Io adesso quando lo devo mettere in moto, il primo giorno lo metto nel portale, tolgo il coperchio, tolgo le candele e gli metto una spruzzatina di olio così. Poi gli rimetto le candele e lo farò partire in mare. Oppure anche lì prima gli faccio fare il giro a moto, in modo che l'olio che c'è nel sumero lo sputa fuori e quel poco che rimane dentro serve per oliare le fasce là. Poi lo metto in moto con un poco d'acqua dolce, le tacco la pompa e va. E niente, poi lo metto a mare. La passata alle candele candele sempre, te lo dico per esperienza, perché poi ti succedono problemi e neanche te ne accorgi. I carburatori è consigliabile farli una volta all'anno, pulirli, non so se lo sai fare, però è sempre bene farlo, smontarli. Io l'anno scorso mi ho bruciato un mese di vacanze perché non avevo fatto i carburatori. Tu non hai dato tutto il macello, ho dovuto farlo in mare, smontarlo in mare e portarlo in officina e farlo. E ho preso un mese di vacanza. Io al limite se c'è qualche problema telefono a quel mio amico, viene e me lo guarda e fa il controllo e tutto a posto. Io addirittura sono uscito 2 volte. Vabbè, tutto organizzato, io andiamo a fare un giro, arrivo fuori dal porto, il motore non camminava, non rendeva. Ho detto qua è successo qualcosa, l'ho riportato piano piano, siamo rientrati nel coso, sono fatto tutti i lavori che dovevo fare, convinto che fossero certe cose, invece non era così, sono uscito un'altra volta e mi ha fruttito di cose, alla fine ho dovuto smontare tutti i carburatori perché stavo andando a 2 cilindri il motore, e ho dovuto smontare i 3 carburatori, me li ho portati in officina, lavati tutto quanto, piazzate le candele nuove e funzionata alla grande, però intanto mangio un bel su, un mese di vacanza. Però io diciamo che adesso come inizio il tempo buono la macchina inizia a metterla in mare, ma non tanto per la macchina, anche se la tratto solamente per dire un sabato sera, una domenica mattina e via, però diciamo che io vacanza non me ne brucio perché adesso inizio a metterla in acqua e la faccio camminare. Capite, poi al momento delle vacanze la marca è pronta, è a posto. Ma io non ho fatto quello lì, il discorso, sono andato a farmi un giro e non ha funzionato. Poi ci sono riprovato un altro fine settimana e non ha funzionato, ma questa alla fine in 2 volte non ho dovuto smontare i carburatori, poi ritornarci un'altra volta per ripiazzare tutto e ci è passato un mese tra una cosa e l'altra. E mi ha bruciato 1 mese, per dirlo a te. Magari ci sarei potuto andare in altri giorni, però la sera preferivo andare da altre parti, per cui non avevo tempo di farlo con lavoro, ma ci è passato un mese, sono stato 1 mese senza utilizzare la barca. Va bene, non è un problema. Vuol dire che se non mi funziona la barca, vengo da te e ti chiedo il permesso e uso la tua, non va bene. Basta, ma avevo la battente però. La patente è un pezzo di carta, noi diciamo di andare a Lupi a prendersela. Sto scherzando, Romè. Ma pensa per capisco, capito, ci sono problemi, però diciamo il mare non bisogna essere mai, cioè la prudenza non è mai troppa, e mi ha avuto una mutazione, è stato detto l'anno scorso, per cui io sono già prudente di natura, adesso dopo che è successo questo ho finito, ci sto molto ma molto attento, è inutile risparmiare una candela cagata, ogni anno adesso le metto, io l'ho sempre messo nuovo le candele, però quest'anno ho detto no, le avevo appena messe, erano nuove nuove, ho lavorato 2 ore, 3 ore di lavoro, e invece volevano nuove lo stesso. Vabbè, ma quella lì è perché la tua rimane in mare, magari la sorsisi nella cosa, la rovina, la fa, la via è coperta, c'è il talone, non l'hai vista come è messa, non è che sia uno dei migliori il talone, però poco poco lo protegge. No, no, a livello di marca, a parte la carena, che quella si rovina perché è messa nell'acqua, però tutto il resto è coperta la barca, c'è un telone chiuso, c'è le cerniere dietro, c'è una specie di tendalino fatto su misura dal tappezziere che ti copre tutta la barca, ci puoi stare dentro in piedi, è una cosa fatta su misura. Però il problema sono sempre i motori, il cavolo. Io ogni settimana di massimo ci scendo giù, la metto in moto, la faccio girare un quarto d'ora in modo da tenerla sempre sveglia, far caricare la batteria. La tua a proposito, come messa in moto a motorino? Papà. E almeno quello è meglio, perché almeno non hai rompimento di scatole. Il problema è che mi si carica già la batteria, adesso questa c'è una batteria di camion, ma io di batteria ne ho cambiato già altre due, mi è capitato di inverno andare a metterla in moto e non ce la faccio la batteria, perché col freddo eccetera eccetera se ne scendeva un po', adesso le ho messo la batteria di un camion, la vedevo che si vira avanti, fino adesso non mi ha mai tradito. Ecco, però io adesso quando inizierà la stagione che vedo un poco le cose, prima di mettere la tomba anche io vado a comprare una batteria nuova. La girante l'ultima volta che l'hai cambiata quando è Mario? L'ha scorso. L'ha scorso il tasse? Quello è importante, soprattutto nei motorini, quelli piccolini, perché diciamo quelli grossi, tipo il mio 70 cavalli, la girante è molto più grande, più robusta, per cui le alette non si piegano molto, ma nei piccolini, te lo garantisco io, perché ho avuto anche 25 cavalli, eccetera, eccetera, la girante se non la cambi ogni paio d'anni, si arrampi, ti sembra buona e poi si secca dentro e di colpo si spacca e non si sfrutta più l'acqua e fuori il motore. Ecco, io lo so. No, io l'ho cambiato l'anno scorso e niente. Vabbè, adesso quest'anno me la uso ringraziando sempre quello di su che ci protegga, che non devo fare altre spese sulla barca. Poi quando finisce la stagione, al limite la porto da quell'amico e me la posso mettere a posto. La faccio ringraziare tutto quanto, mettermela a posto e col calore si copre nuovamente e rimane lì. E poi l'ideale è staccare anche soprattutto quando rimane ferma, tipo la tua, staccare i cavi della timoneria, cioè dell'acceleratore, delle marce, in modo che non siano in tensione, eccetera, eccetera, così si puliscono bene, poi prima di piazzare li ingrassi bene col grasso bianco ed è tutto a posto, tutto efficiente. Quello è importante farle, quei lavori lì. Poi pulire tutto il motore, tutti i meccanismi, ingrassarli bene, farlo funzionare a vuoto, senza i cavi. A girare appena appena in modo che il motore sia efficiente. No, sembra che gli vada tutto bene, era tutto quanto bene ingrassato, ben fatto, non è che sia, non credo che quello lì mi dia problemi. Comunque poi, te l'ho detto, io c'è questo amico che fa manutenzione per motore marini e via dicendo, al limite me le faccio controllare da lui. La fa manutenzione dei motori marini questo? Papà. E magari lo conosco pure, perché quasi tutti li conosco, ma di Sassari? Papà. Dimmi il nome e non il cognome. Salvatore. Sì, sì, ho capito. Così che lui viene in cappellone, me lo guarda, me lo fa, e poi quando ha finito, prima di chiedergli quanto è, gli dico posso viaggiare tranquillo, e lui mi dice sì o no. Caffa, sempre bene controllare prima di andare, perché il mare non è che ti pone a piedi, chi vuoi mettere torre a piedi, o arrivi o se no ti chiama al giusto. Io una volta mi è successo un guaio l'anno scorso, che siccome te l'ho detto che la macchina me l'avevano rubata, poi ho recuperato il motore, ho fatto, l'ho messo a posto le cose che erano la macchina a posto, e invece l'anno scorso sono uscito e mi è successo un guaio. Cioè, la macchina, se non chiede molto, ha messo in moto, è partita tranquilla e sono arrivato dove doveva arrivare tutto quanto. E poi quando dovevo ritornare dietro sono andato a mettere in moto e non metteva in moto. Allora ho buttato la cima un pescatore e mi ha tornato sino al porto, tutto lì. E niente. Ho chiamato il Salvatore, è venuto e mi ha detto Mario, te lo violeggiate crepato e non potevo passare la benzina. Abbiamo cambiato il violeggiato, ha fatto quattro pulito bene il carburatore, passate via. Ma lavoro di mezz'ora e nemmeno. Papa, ma tu due cilindri non c'hai il Mercury America tu, 25? Il Mercury America ha due cilindri. Ti sei bloccato un carburatore e non camminavi. A me un cilindro me l'ha partito lo stesso problema e non rende, poi come andavi a aprire si affugava il motore perché la centralina gli mancava la corrente e non riusciva a partire. Ecco, però abbiamo tolto il volano, ha aperto, ha tolto il carburatore, dopodiché ha cambiato il galleggiante, richiuso tutto e via. Ah, l'ha cambiato proprio il galleggiante? Sì, sì, era spaccato, è come se è spaccato. E poi se tiro la cosa, è rimasto, che rimaneva chiuso, capito? E non lasciamo passare la benzina. Caffè, ho un difetto non tanto comune, quello. Normalmente lo si loconico, si rompe o si consuma, ma il galleggiante, ha spaccato il galleggiante, stanno ora secco e si è vetrificato. Quello non lo so, io ho visto che dove mantenere, allora c'è il galleggiante, hai visto che c'è quell'angolo dove tenere il filo conico, si è spaccato lì, dove tenere il filo conico, e infatti il filo conico è rimasto chiuso dentro, capito? E non lasciava passare benzina, perché se avremmo lasciato passare poco poco di benzina, lui sarebbe partito e mi avrebbe portato se ne importa, magari piano piano, zuppica zuppica, o mi avrebbe portato se ne importa, invece niente. KKE, magari è successo che non è stato piazzato bene, è stato forzato, poi col tempo si è lesionato e si è spaccato. Non lo so. Avevo cambiato, sempre l'anno scorso avevo cambiato anche, hai presente il perno della Mercury, che ho fatto il carraccio, il perno centrale, io quello lì l'ho fatto cambiare, l'ho messo in acciaio inox. Caffè, quello l'avevo fatto anche io, per il 25. Questo del 70 invece non c'è bisogno perché è talmente grosso, enorme, non ha mai avuto problemi, però nel 25, in tutti i 25 mi aveva dato problemi. No, questo qui anche il 40 cavalli, ho visto che è un bel grande come motore, però c'è sempre quel perno in ferraggio, e se io dovessi mettermi il motore per comprarmene uno da 40 cavalli, quello lì io lo tolgo e me lo prendo. Caffa. I Mercury poi hanno un albero di trasmissione che non è in acciaio inox, e quello lì è un difetto dei Mercury, infatti se rimangono molto tempo fermi si arrugginisce ed è un problema, l'albero di motore, di trasmissione. Vabbè, ma quello lì è un pezzo, non è che sia molta cosa, è un pezzo che se indessa a maionetta con l'ingranaggio che c'è sulla motore, perché io, ti ripeto, allora, la prima marca che avevo era leggerissima ed era molto più piccola, non poco, no, molto più piccola, e con quel motore andava benissimo. Quando poi me l'hanno rubato io il motore, l'ho recuperato e l'ho portato a revisionare, gli ho fatto cambiare il ferro, l'asse, quello che vicenda. Gli ho fatto mettere gli acciai, gli abbiamo cambiato le guarnizioni che andavano lì dove si infila il gambale della trasmissione, come lo chiami tu. Ho fatto cambiare tutto il gambale, perché gli ho messo a gambo lungo, perché con quella gambo corto non mi rendeva, non camminava. E ho fatto tanti lavoretti che giustamente volevano fatti. Tutto qua. Perché la banca tua a gambo lungo? Adesso sì. No, pensavo fosse quello che ho a gambo corto, lo sapevo il papà a gambo corto, ma le ha cambiato il gambale o le ha messo la prolunga? No, abbiamo cambiato tutto il gambale. Sì, è un bel lavoro. Le televisioni sono, non io, mio fratello, le aveva messo la prolunga, si danno uno spessore nel gambale, si mette prima del piede, uno spessore di 17 cm mi pare, e te la lunga, li cambi la mia trasmissione e fai in fretta, è roba veloce. No, no, io avevo cambiato tutto il gambale. È un travaglio, una Johnson è più facile perché tu lì il piede, gli metti questo spessore di 17 cm, li infili l'albero di trasmissione ed è tutto fatto, lo fai velocemente, nel caso tuo invece devi smantellarne tutto da coso, dalla macinella diciamo dal pezzo di sopra. No. Noi qui abbiamo fatto tutto da sotto, abbiamo cambiato tutto il braccio, capito? Abbiamo messo un braccio lungo anziché quello corto, ma l'avevo fatto pagare, mi sembra, 250 euro. E più ho dovuto dare il mio, quel gambo corto. Cappa, però ha dovuto cambiare anche l'albero di trasmissione. Tutto è svoltato da un motore. Messo nel mio, smontato tutta la parte di sotto, perché quello lì, l'albero di trasmissione, è lesto, non è ambulonatura, ok? Tu quando muori il pezzo di sotto, lo scendi tutto, hai capito? Lui ha cambiato tutto il pezzo di sotto. Sì, già lo conosco bene quel motore, non c'è problema. Però rispetto ai Johnson, a lei è vero, è più complicato perché devi partire da su. Mentre di là lasci tutto piazzato, il gamma lo lasci piazzato, metti solo il piede, dove c'è la finestra, e li metti questo spessore, lì infili l'albero di trasmissione che è in castro, e piazzi tutto, mezzo vai lavoro e finisce. Questo qua ho dovuto scaricare tutto lassù dalla macinella, là sotto il motore praticamente. Sì, lo so, è più complicato, diciamo, loro non ho mai capito perché la Mercury non ha mai fatto questo tipo di discorso, la Yamaha lo fa la Johnson, lo fa la Evinrude, la Mercury è l'unica che non lo fa questo discorso, la Mercury e la Mariner che sono precise. Come lì non te lo so dire, ti so solo dire che a me mi è costato quella cifra, però avevo voluto anche il pezzo del gambo corto. Ma l'hai preso usato o nuovo tra l'altro questo pezzo? No, era in un motore che questo quindi revisiona, li fa e via dicendo, e siccome Salvatore con questo qui trattava bene mi ha detto guardami, io sono un amico che purtroppo non può spendere molti soldi e c'ha questo gambo corto che è nuovo. Se da comprare un nuovo di negozio, quello costerà almeno 700-800 euro. Qui c'è la bella trasmissione, eccetera, eccetera, ti costa un bel dinanzi. Hai fatto un affare e nello stesso tempo lui si è ritirato il suo e è andato bene anche a lui. E lui, intanto quel motore, o che lo vendeva a gambo lungo, o che lo vendeva a gambo corto, sempre questo si voleva, eh. Vabbè, ma un motore a gambo corto 25 è molto più commerciabile di un gambo lungo da 25. Di barche che navigano con un 25 cavalli in gambo lungo, sono pochissime, tutti quelli a gambo lungo sono dai 40 in su, la maggior parte, cioè c'è un gommone oltre 4,50, devi mettere 50 cavalli, 25 sei proprio al limite. Io ho visto che la mia, la barchetta non gambe, ma sei proprio il limite della potenza minima. Lì per fare la cammina ci vuole un 40 cavalli con la barca, è pesante. Dillo a me che è pesante, perché io non l'ho vista quanto è pesante. Davvero, l'ho visto già, però già ho visto che già cammina e così, che mi va pure bene. E poi uno mi ha detto che basta cambiare anche l'elica, dice l'elica, anziché mettere quella lì metti l'altra, dice spinge di più. Sì, vabbè, lì che vanno provate. Io per dire, nella barca mia io di eliche ne ho 3 tipi, anzi 4 ne ho di eliche. Adesso ho messo, invece avevo un'elica passo lungo, molto più veloce, però, come si chiama, distinta, ne avevamo molto di meno. Adesso ho messo un'elica in acciaio che pesa 4 volte tanto, passo più corto, spinge molto di più la barca, cammina di meno, ho perso roba di 4 nodi, mi sembra, ho fatto 5 nodi di velocità, però io a 2000 giri la barca sta camminando e rende, mentre prima la dovevo portare a 2500-2800 giri per camminare. Consumo molto di meno, cammino di meno, vabbè, però consumo molto di meno. È cappagatta. No, io la mia vedo che quando la metto in moto, come invece di una lì che inizia a camminare, no? Non c'è problema. Poi a me, ripeto, non è una barca che ho pesato per fare gomma o per quello o per quell'altro. L'ho pesata giusto per svagarmi e per andare a pescare con mio figlio, punto. Infatti è così, io quando ero ragazzino che avevi la mania della Gribulli facevi tutte le modifiche, l'elica alla velocità eccetera eccetera, ormai non me ne affitto più nulla, io voglio che consumi il meno possibile, che sia meno rumoroso, nel senso che se camminare a 2000 giri il motore è più rumoroso, è meno rumoroso e consuma molto di meno. Invece prima di andare con un gommone sempre a manetta, prendere i macchi eccetera eccetera, adesso non me ne frega più niente, cammino piano. E poi meno vibrazioni ci sono e meno cose si rompono anche. E già Rubri, a parte che poi la cosa più importante è il consumo, perché il motore mio consuma bene. Ti dicono, loro dicono più di 30 litri a ora, e quando cominci a girare, ti fai un paio d'ore di giro, te ne hai consumato 60 litri e non sei andato da nessuna parte. Cappagatta, purtroppo così, no, io lo stesso, non è che io vado da nessuna parte, io mi ho un mio vicino verso Malai, oppure me ne vado verso la riga, però non attaccato alla riga e me ne vado un po' lontano. Eppure mi diverto, ogni tanto mio figlio se ne va alla Pinea, la maneggia sta più lì vicino alla barca, io mi metto pure a girare e ci sta meglio di me. No, no, vabbè, verso la riga non ci vado, raramente ci vado, qualche volta vado verso la torretta, quella zona lì dove ci sono tutti gli amici, la casa dell'estate ce l'abbiamo presa di lì, ci sono tutti gli amici, ci ancoriamo di lì e pure la moto me ne torna a riva. Ah, cappagatta, no. No, io per fare così non me ne piglio neanche in barca, per lasciare la barca in acqua e tornarmene pure a riva a nuoto, e andare, no. Io quando piglio la barca la metto in mare, e devo stare quasi tutto il giorno a pescare, o che mi porto famiglia, o che mi porto quello, che mi porto quell'altro. Comunque devo passarci la giornata pescando. Poi la pesca per me è un divertimento, è un hobby, un passatempo, un divertimento. Rimango lì, mio figlio lo stesso, ci mangiamo un panino, poi ci spostiamo, e dicendo, io non ho un eco scandaglio, non c'ho questo, non c'ho niente nella barca, c'è la barca con motore, punto. No, no, vabbè, già c'è tutta l'attrezzatura, ci vuole per trovare i punti, il GPS, c'è il coso, l'eco scandaglio, eccetera, eccetera, però non, diciamo, non è che lo utilizzo per quanto lo devo utilizzare, la barca non è che l'avevo utilizzata tanto, questa estate l'ho utilizzata poco. A me piace farmi il bagno, farti la pescatina subacquea, così, però la pesca da canna, diciamo, non ho molta pazienza. Qui vado a prendere i furti perché almeno qualche cosa da prendere, ma la pesca da canna non fussi fussi, non troppo. Mario, così. Sì, detto, stavo cercando le sigarette con la cendina. Papà. Robe, purtroppo funziona così. Cioè, non mi metterò il malacchino, mi metterò questo scandaglio, mi farò un bel impianto, capito? Mi metto un po' tutto. E poi, quando sarà il giorno che viene, mi guardi qua il paradresso perché voglio cambiare la guarnizione. Se c'è qualcuno che ce l'ha, che lo troviamo, devo cambiare sia la guarnizione di sopra. Piano piano, tutte queste cose si fanno piano piano. Vabbè, ogni volta che uno respira, anche se è un amico, uno per onesto che sia deve chiedere quanto è, anche perché uno lavora per la Madonna, ti posso fare pagare 50 euro in meno, per dire, di mano d'opera, però il lavoro uno lo fa, il materiale lo compra, capito? Non è che vai lì e poi dici grazie e ci vediamo, grazie un cazzo, quello là vuole chiudere perché ha lavorato, Salvatore è un amico, cioè, se mi può far risparmiare le 10.000 lire me le fa risparmiare, però me la vede la tavola che lui se vuole galleggiare andate e l'ha comprato, me l'ha messo lì, capito? Non è che l'ha fatto portare lo spirito sacro, e poi è venuto anche domenica mattina, figurati. E quindi lo dovevi ringraziare alla grande. Qualcosa di positivo, però ciò non toglie che l'amicizia, uno sì, l'amicizia, è soltanto che sono venuto perché sono amico, se no ti avrei trovato anche un paese, e mi sembra anche giusto, Fatto di una curiosità Mario, ma quello che stava parlando prima, Fabio, che c'era un sacco di anni fa, i baracchini, quanti anni c'ha? Ah, io penso che oggi dovrebbe avere, che aveva 16 anni, dovrebbe avere 25 anni. Ma è giovane quindi, non è, no, pensavo fosse più grande. Non è sposato, no, perché pensavo ci avesse famiglia o cosa del genere. Ah, no, negativo. Sì, c'ha i genitori, però lui no. Era scappolino, era giovane, giovanissimo poi. Cioè, ripeto, lui aveva 16 anni quando ha iniziato quando ci siamo conosciuti noi. Sì, ma il padre cos'era? Cibì il padre? Guarda, vabbè, io faccio a lui, non chiedo mai niente, perché non sono cose che mi riguardano. Vero, queste qua, non so se il padre era Cibì o che cosa. Gappa. No, no, vabbè, sto facendo queste domande per cercare di capire, perché ma sei così giovane sicuramente non lo conosco, perché diciamo quelli di vecchia generazione, della generazione mia, che abitavano lì un sacco di anni fa, Carmonati, più o meno li conosco tutti, probabilmente a lui non lo conosco, di quelli nuovi che sono arrivati di quei palazzi nuovi. No, c'è 16 anni lì. Vabbè, ma 16 anni sono troppo poco, io parlo di gente che c'era 25 anni fa, così. E vabbè. Io quello lì non lo so, magari lo può darsi pure che lo conosci, o perché l'hai visto col padre, o che, boh, non lo so, tutto può succedere nella vita. Tappa, tappa, no, no, ma dico, tu personalmente non lo conosci, quindi, solo al baracchino. Ah sì, ha detto. No, ci conosciamo di persona. Siete conosciuti al baracchino o dove? Siamo conosciuti al baracchino e fuori dal baracchino, come mi conosco con te di persona. Gaffa, gaffa, quindi il baracchino è anche un motivo per conoscere le persone, no? Perché la maggior parte delle persone, io pensavo il baracchino, solo ti conoscevi per voce e buh. No, negativo, io lo dico tutti, ma una buona parte li conosco, ma non è che li conosco, cioè, li conosco quando... Diciamo ci vogliamo conoscere, se non ci vogliamo conoscere tu rimani lì e io rimango qui, capito? Non c'è niente di particolare. casa propria, così si dice. Vabbè, capa, c'è quello che gli piace uscire, divertirsi, trovare un amico, invece un caffè, una birretta, quello che è, e via. Poi c'è quello che dice no, no, non voglio conoscere nessuno perché magari questo, magari quello. Cioè, non è detto che per conoscere una persona ci sia chissà che cosa. Cappa, confermo, ricordate che non c'è una persona assillante, anche Vito Borilli, tipo quello che avete chiamato voi, quel tipo famoso che si nomina tutti i giorni al baracchino, mi dice era un assillante. Ma cosa? Quello lì era, come si chiama? E vabbè, ma adesso non c'è più, ma allora io l'ho pesato, l'ho pesato perché era una ragna, sempre con il gioco, quella la casa, con questo, con quello. Magari però ci sono certe volte delle persone fissate che ti si attaccano e devi stare attento come ti rimuovi, perché sennò tu sei sempre attaccati. Vabbè, ma no, noi perlomeno, io parlo da quando sono in frequenza, siamo persone che lavoriamo, abbiamo tanti problemi e il baracchino lo vogliamo poi rilassarci, poi quando ci troviamo non è che oppure può succedere un qualcosa che uno può avere bisogno, dice guarda mi serve questo lavoro, e uno dice sì vabbè ce la posso fare però fra 10 giorni, fammi sapere questo, dimmi ma uno si mette d'accordo e poi via, cioè si lascia il tempo che si trova, non è che uno perché si conosce deve stare sempre a casa tua, capito? Cioè, una volta ogni tanto ci incontriamo, ci prendiamo un caffè, ci possiamo fare una chiacchierata, poi tutto finisce lì, non è che uno devi fare di indetto. Cappa, confermo, ma senta, ma non è quello di Roberto, capello che sono qua vicino alla finestra, ma arrivi via la cosa, una tromba d'aria. Ma io qui, forse perché abito in basso, abito al primo piano, così che non sento niente. Ciao, sembra che stia passando un aereo, senti il veicolo soffio, un bel fuoco, forse perché non sono abituato a stare in questa stanza, ma nell'altra stanza dove dormo non si sente niente, ma oggi pare che ha bisogno di un mondo. Ecco, poi si è alzato stasera alle 4, si è alzato questo vento. No, io sono sempre preoccupato per le parabole, vabbè che sono ancorate, hanno dei pali, saranno di diametro da 100 sono quei palo, da 90 è il palo, 9 cm di diametro il palo che ho, ancorato con piastre passanti, non si tra, però non, la paura mia è sempre che si stacchi la parabola vera e propria e parti da lavoro e fa svegliarlo. Allora ti credo, sono in alluminio, sono leggerissime. Questa è la cucina, allora, la mia una è in alluminio, la piccola, quella grande è in resina, peserà 20 kg solo la parabola. È costruita in una maniera eccezionale, però la resina col tempo si rovina, questa va bene, molto robusta, eccetera, eccetera, però non si sa mai, c'è dei bolloni da 19 per bloccarla passanti, però magari te ne cede uno col tempo, gli ha rumore, l'amico mio che sta alzando una 120, gli ha preso il volo e l'ha stracciata proprio completamente. Ah no, e per poco ora non mi guardo c'è il vento. Cazzo, altro che dischi sono. L'hai vista tu la parabola di quello che ho io? Sì, li ho messi tutti e due. Il telegraggio in alto qui stamanna, io ti devo fare un bel danno, vabbè a parte la piccola, ma quella grande, quella è resina, quella è pesante, pesa una ventina di chili, vabbè 20 no, fai 15 kg, però col vento diventa un blu, non lo so cosa fare. Vabbè, ma cioè è una cura tua doverle controllare ogni anno, no? Se tutto a posto, se tutto va bene, se sono un po' consumate o che bisogna farle in un determinato modo. Sì, no, già ti anche più attento per quelle cose lì, però purtroppo basta un attimino una cosa che ti cade, che ti cede col tempo, non lo so, che oggi è tranquilla, domani andi e si tronca il dito, è come per dire un pezzo di una macchina, si sta camminando tranquillo, poi di colpo ti si rompe un cuscinetto, ma di che la giorno prima stava andando tranquillo, la parola mia è quella lì, e poi questa da un altro va, non lo so, perché è uscita la roba, vabbè, non sono rigida, però mi auguro che non si troncano. La macchina va, dopo tanti anni se ne può cadere qualche radiale, ma niente di serio, ho capito. La canna difficilmente si rompe, solo per le cose del resto difficilmente si rompe. Allora, rompe se bisogna sempre più rasica. Ce n'è una davanti a casa mia, è lì quella che c'ho di fronte, ma lì ci sarà 25 anni di lì, sempre molto male, però è sempre di lì, non si è mai mossa. Allora Marco, che sono buone antenne, non è facile che ne cagano. Oh, io la paura mia è se dovesse togliere qualche tirante, è vero che quest'estate mi toccherà salire e controllare i tiranti. Perché io ci sono anche in acciaio, però c'ho 8 metri di palo e poi sopra c'è l'antenna. Non ti fidare troppo dell'acciaio, perché l'acciaio, te lo posso dire, ha avuto brutta esperienza, il palo da 13 metri si è troncato da su un ecco, si è piegato in due, me ne avrei sceso tutta l'antenna, ha mollato un tirante e ne farà da tutta in tre. Beh, questa qui a palane non è rara, perché per sapere bisogna che ne scenda pure il muro, perché ci sono due belle scape cimentate e niente, poi ci sono i tiranti giustamente, però perché la canna deve oscillare e siccome io li ho messi quasi in punta i tiranti, in mezzo non li ho messo, in modo che anche se questa l'antenna sopra non gravi solo sopra, capito? Sopra rimane sempre, il maricentro rimane sempre fermo, capito mia? Perché praticamente risulta a metà forza tra la punta dell'antenna, che è quella che flette di più, e il palo di sotto. Siccome quando il vento succhia tutto da una parte, perché succhia solo da una parte, porta l'antenna, però la cosa che fa l'antenna piegandosi sotto nel palo rimane sempre fermo nello stesso punto, però un po' di oscillazione la fa anche il palo, capito? Perché se tu la dovessi fare troppo rigida succederebbe un guaio, infatti a me mi hanno detto di non farlo il palo troppo rigido, cioè arrigidirlo con i tirati, anziché metterne tre i tirati, metterne sì, tre in punta e tre a metà, io a metà non li ho messo, li ho messi solamente in punta in modo che la pressione un poco la faccia anche il tubo, perché il tubo essendo un tubo molto lungo che è di 8 metri, c'è un pochettino di oscillazione, anche se è poca, però quel tanto lì serve a non fare strappare i tiranti e a non farne il tutto. Gaffa, come hanno utilizzato tiranti in nylon, hanno utilizzato in acciaio? Perché sono molto più forti, perché il nylon col calore si ammorbidisce, e col freddo uno si rigidisce e poi tende a spaccarsi, invece di quella maniera lì l'acciaio c'è sempre quella sua rigidità, c'è sempre appena appena di oscillazione, perché intanto non riesce mai a tirarlo come si dovrebbe tirare, no? Però c'è quel tanto di tira, più quando c'è il vento si fa quel poco di gioco, però è quello che ci vuole. Altrimenti tu lo sai che una cosa molto rigida si spezza. Hai capito? Cappa. Oh Mario, io adesso interrompo, mi gioco mezzo drumelli, che dovrebbe passare anche presto. Ti saluto, ti auguro una buona notte e alle prossime. Saluto anche a Davide, se l'ascolto. Ciao. e sto giocando col computer. Vabbè, Romè, ci sentiamo alle prossime. 144 e